questo pomeriggio, doveva presiedere il professor Edoardo Mirri dell'Università di Perugia, per gravi motivi familiari non è potuto essere presente con noi, si scusa e porta il suo saluto a tutti i convegnisti. Faccio una brevissima introduzione affermando che è con un certo imbarazzo e tremore che ho accettato di presiedere un così qualificato consesso di studiosi di teologia e del pensiero rosminiano. Ricoprendo la carica di presidente dell'Accademia Roveretana degli Agiati, attenti che Agiati era Accademia Lentorum, non Accademia Divitum, mi corre l'obbligo di presiedere questa seduta come segno tangibile del rapporto che si è instaurato nel tempo tra l'Accademia degli Agiati e il suo socio sicuramente più illustre. Questo ritengo che era doveroso che lo dovessi dire. L'Accademia Roveretana degli Agiati, sorta in questa marca di confine nel 1750, è destinata ad assumere in pochissimi anni un ruolo storico di mediazione tra il mondo di lingua e di cultura italiana e quello di lingua e di cultura tedesca, ottenne dopo soli 3 anni il sigillo di Imperial Regia Accademia dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Questo ruolo dell'Accademia ebbe sicuramente un suo peso nella formazione di Antonio Rosmini, il quale appena 17enne, caso unico nella lunghissima storia di questa Accademia, 245 anni, fu aggregato all'istituzione il 27 dicembre del 13, cioè appena 17enne. Alla nostra Accademia Antonio Rosmini contribuì in vari modi. Ricordo nel 1823, quando scrisse le nuove costituzioni degli accademici agiati di Rovereto, con il proposito di rinverdire il clima fervido e creativo dei primissimi anni iniziali. Nel 1834, quando fu arciprete a San Marco, sviluppò molteplici e fecondi rapporti con gli accademici e con la istituzione. Di fronte ad una sua relazione tenuta nella sede dell'Accademia nel 1935, il segretario annotò «Conticuere omnes intentique ora tenebant», a dimostrare l'ammirazione profonda e convinta dei presenti. Questa ammirazione spinse nel 1879 gli accademici ad eleggere Antonio Rosmini presidente onorario perpetuo della nostra istituzione ed a sostenere le posizioni nei lunghi anni delle incomprensioni e delle difficoltà contro ogni ingiusto attacco o sospetto. Si dà il caso che oltre ad essere presidente dell'Accademia degli Agiati sia anche preside del liceo classico Antonio Rosmini. E in questo caso non posso non ricordare che in prima ginnasio Antonio Rosmini fu bocciato, perché non si interessava più alle letture di Fedro e di Cornelio Nepote. È un problema dei superdotati, professore, che viviamo molto drammaticamente nella scuola oggi. Sorpreso a leggere in classe la Summa Teologica di San Tommaso, l'insegnante usò la Summa come arma impropria, sia pur senza infierire, sulla testa del giovinetto, chiedendogli indignato: «Sono libri per voi, codesti?» Antonio Rosmini ripeté la classe con ottimo profitto. Ebbe soprattutto poi la fortuna di trovare insegnanti molto più avveduti e alla fine fu ammesso direttamente e con sommi elogi alla 4ª classe. Come un uomo di scuola chiedo perdono ad Antonio Rosmini. auguro a tutti i presenti un buon lavoro nella convinzione che l'alto livello